Buongiorno amici di IT News, benvenuti alla prima puntata di Radio Webcasting IT News, una trasmissione dedicata al mondo delle tecnologie che si affiancherà all'informazione che quotidianamente il nostro sito offre sul panorama della New Economy. Vito Lops da Milano vi parla delle principali notizie della giornata dal lunedì al venerdì. Partiamo subito con l'argomento di oggi. In primo piano la notizia più importante è stata la firma da parte del ministro delle comunicazioni Mario Randolfi del decreto contro le super bollette telefoniche, una firma che è stata approvata anche contestualmente dalla Commissione europea e dall'autorità di garanzia per le telecomunicazioni italiane. Ma cosa prevede questo nuovo decreto? In piccoli punti, lotta ai dialer, un tetto massimo di spesa di 12,5 euro a chiamata e l'obbligo per gli operatori di rete fissa di offrire gratuitamente a tutti gli abbonati il PIN per controllare l'uso del telefono di casa su questi servizi. Quindi un controllo molto più serrato e soprattutto mira a favorire la tutela da parte dei consumatori telefonici e ad impedire che questi incappino in disservizi e in trappole che si nascondono spesso su internet, come per l'appunto i famosi dialer, quei programmini che reimpostano la connessione online dell'utente senza che questi se ne accorga ad un numero estero, poi facendo schizzare verso l'alto le bollette. Questa quindi una delle principali riforme del Ministero della giornata, è sicuramente una delle principali notizie di quest'oggi, così come non è assolutamente trascurabile la seconda vittoria in un braccio di ferro che ormai va avanti da qualche mese, se non da qualche anno, da parte degli studi di Hollywood che riuniscono le principali case cinematografiche del mondo. La MPAA infatti ha ottenuto la chiusura nei giorni scorsi del server Razorback, del popolare software di file sharing Emule, e nelle ultime ore ha ottenuto l'oscuramento di un sito internet, per l'esattezza è di 2kit.com, che anch'esso, come il server Razorback, fa parte della comunità degli utenti Edonke 2000. Punto di riferimento per milioni di webnauti, questo nuovo sito pubblicava consigli e indici per la reperibilità di file audio e video circolanti in rete. Rischio grosso, chi gestiva questo sito al momento ancora non noto. Secondo la denuncia infatti dell'associazione che riunisce le major cinematografiche, l'accusa è quella di induzione a delinquere, proprio perché il sito favoriva la pirateria allo scopo di lucrare della condivisione di file tutelati dal diritto d'autore. Infatti sul sito vi erano anche numerose inserzioni pubblicitarie, quindi si tratta anche questa di una notizia assolutamente rilevante dal punto di vista dello scenario tecnologico di quest'oggi. Chiudiamo con un'altra notizia in breve. Google, dopo le dichiarazioni del direttore finanziario George Hayes sulla impossibilità da parte del motore di ricerca di mantenere questi ritmi di crescita, è arrivato ieri da parte di Eric Schmidt, l'amministratore delegato del motore di ricerca più utilizzato della rete, l'annuncio che la società punta entro l'anno a diventare un colosso da 100 miliardi di dollari. Per questo verranno rafforzate delle misure sulla ricerca pubblicitaria e sull'innovazione, quindi il motore di ricerca non si fermerà affatto. Parole che hanno spinto in alto la quotazione del titolo, depressa nei giorni scorsi dopo per l'appunto l'episodio del direttore finanziario. Google, che comunque veleggia più basso rispetto al picco di 471 dollari di inizio anno, adesso preso fiato in borsa. Io vi lascio qui, mi auguro che sia stata una piacevole trasmissione, possiate continuare ad ascoltarci e soprattutto a lasciare i vostri commenti su itnews.it, che da oggi è anche una radio. Grazie a tutti, un saluto da Milano, da Vito Lozzi.